Va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi, alla conduzione tecnica Simone. Une. Puntuali come un orologio svizzero ricaricato da poco, eccoci qui, Marzi. Al quale hanno cambiato, ed Enzino, al quale hanno cambiato una pila. Attenzione, perché potrebbe essere un mestiere del 3000 questo. Non ci sto riflettendo, Enzo. 24esima puntata. Ci dicono che è ricercato, la manovalanza e certo, la maestranza. 21 maggio, 24esima puntata, Piazza Alta. È giovedì. Come sempre. Iniziamo? Una volta Simone, alla settimana. Buonasera. Ciao. Buon ascolto. Il nostro ospite è già qui con noi, ma ve lo presentiamo tra un po'. Via. Non è il caso di risvegliarmi se esco poco la sera e bevo solo, per sentirmi straniero quando scrivo e trovare parole adatte al suono. Caso se provo un po' di timore, non mi dava il piacere di provare l'efficacia di musicare a stento l'emozione di un momento. Se mi pento non mi arrabbierò, dimmi se arrossisco un po', e nel caso insistessi poi, non mi dire sono cazzi tuoi. Se mi pento non mi arrabbierò, dimmi se arrossisco un po'. Questi erano i nostri amici, caro il mio Marzi, Vincent Butter, che te ricorderai benissimo perché sono stati i nostri ospiti, ma non sono stati i protagonisti di una delle nostre serate, esatto, con l'associazione culturale Piazza Alta, di cui non vogliamo parlare e al quale, ma, al quale mandiamo anche Paola, un saluto, e Andrea. Questa era Confessioni di un gelataio ed è estratto dal loro primo EP del 2015. Fantastico. E mi dirai perché EP? Scopriamo sempre cose nuove. Sì, perché Simone ci insegna, ci fa conoscere, ci fa l'LP partecipi. È long play, in quello con 9-12 brani. L'EP è un 4-5 brani. Ora non andiamo oltre sul sapere perché si chiami I. Insomma, già abbiamo detto abbastanza. Aspetta, early. Sta impazzendo la mia applicazione. Senti, ma è l'argomento di questa sera. Ti ringrazio per questa fantastica domanda, caro. È una fantastica domanda perché parliamo della nostra storia sportiva. Esatto. Storia sportiva di Foiano. Torniamo a parlare di sport, bravo. Ma forse del momento più alto per quanto riguarda gli sport di squadra della storia. Infatti, di Foiano. Abbiamo scoperto che c'è proprio una fascia di anni che ha visto le maggiori prestazioni, il maggior coinvolgimento di grandi talenti e della popolazione tutta. Esatto, perché se a fine anni 70 abbiamo già ospitato gli amici del calcio, abbiamo raggiunto vette massime quali la Serie D, che quando allora era il quarto campionato, perché Marcello mi fa ecco, negli stessi anni c'era un'altra squadra che faceva furore, ma arrivava a dei livelli ancora più alti, ed era la mitica Avis Foiano, che a fine appunto anni 70 raggiunse, pensa caro il mio Marzi, la Serie A2. Attenzione, attenzione! Sempre meglio. Avis pallavolo a Foiano, sotto rete da sempre, un'icona dei nostri tempi, negli anni ruggenti dello sport foianese, un manipolo di Chianini scala le vette del volley nazionale. Batti, ricevi, alza, schiaccia, punto, evviva! Tutti alle docce, abbasso l'arbitro. Un'avventura che rimane, un segno che a Foiano le palle volano, ma soprattutto girano. Questa sera a Piazzalta. Tina Rien, aspetta che la ridico, Tina Rien, Tina Rien, con Shagai Bo. Io se ti chiappo, Simone. Ed è, no, bravi, è bellissimo, bravi. Direttamente dal deserto del Mali, del Mali. Questa musica un è un mix, è un mix di elementi provenienti da blues, rock and roll, dalla world music e dalla musica tradizionale dei Tuareg, Sì. Hai capito? E il problema è anche il tuo, Enzo, che vuoi leggere proprio tutto, fai la storia di tutto ciò. Bene, finalmente. Abbiamo sentito già in sottofondo. Guarda, Enzo, stasera sono molto contento perché abbiamo un gradito ospite che è venuto la prima volta. No, esatto. La prima che volta. Tra l'altro mi ha detto anche che diciamo fuori onda è un po', come dire, emozionato di essere qui in studio, perché è la prima volta per lui in uno studio radiofonico, soprattutto davanti a un microfono, per parlare della pallavolo che l'ha visto protagonista un po' di anni fa. Signori e signori, Enzo, un po' di attenzione. Giorgio Gervasi. Applauso. La prima volta. Per la prima volta a maggio. Quanti, quanti siamo a Foiano? 60 sì, al massimo. Ci sono sempre. Vabbè, tocca allora, una volta, ogni 10 puntate allora, tocca a tutti. Tanto per chiudere questo siparietto, è la quarta volta che Giorgio è il nostro ospite in studio, più altri 3 interventi telefonici minimo. Siamo quindi a 7 su 52, più del 10%. E tutto però, Enzo, tutte le volte. Ma per una cosa diversa. Visto che l'audience sale, esatto, sale. Per sale. Un'attività diversa che lo ha visto protagonista. Quindi e qui potremmo pensare e non che sono finite. E non sono finite. Ci può essere qualche sorpresa. Dovremmo reinvitarlo ancora. Ma questo ci dice anche, diciamo, quanto sia grande la sua abnegazione per Foiano e tutte le sue attività, più o meno ludiche, diciamo. Quanto lavoro. No, ora su questo, se, come diciamo, diceva un nostro caro concittadino che ci è mancato, non facciamo che tutto questo diventi un lavoro. Certo. Per allora cerchiamo di focalizzarsi, perché con Giorgio è molto facile, diciamo, volare tema. E scusa, visto sì, esatto, lui viene chiamato, poi si dice in diretta il tema. Avis Foiano. No, tema, rispondo a te quello che hai detto sul lavoro. Tema, il mio lavoro. Risposta, era uno, non si fanno i nomi. Che faceva gli esami, sì, lo svolgimento, gli esami di quinta elementare, perché sennò non poteva fare dei lavori anche se umili, ma ci voleva come minimo la quinta elementare. Okay. Il mio lavoro, io amo il mio lavoro svolgimento. E un amico, che imbecille. Questo no. È per far capire. Allora, uno è morto piccinino, era il Sussi, sì, che disse che imbecille, e l'altro era il Fifi, ah, che fece gli esami di quinta elementare. Grandi, grandi. Questo era un fuori onda. Una piccola parentesi. Taglia. Un cammello. Allora, stasera però vorremmo parlare e rievocare un po' i tempi della pallavolo ci ha visto protagonisti a livello nazionale. Ecco, facciamo un cappello per chi magari è più giovane e non sa. Esatto. Ci sono stati anni meravigliosi negli anni 70, a cavallo fra gli anni 70 e 80, dove la pallavolo foianese era veramente ad altissimi livelli. In Serie A2, la seconda serie a livello nazionale. C'era solo un girone. Ah, ecco, quindi era proprio ancora meno squadre. E era quello dei golosi, dei lussuriosi. No, già andremo via, non ti ci mettere anche te. Però, ecco, Giorgio perché è qui? Perché Giorgio è uno dei giocatori di una delle colonne, anche per l'altezza, storiche di questa squadra. Capitano. Esatto, ti volevo segnalare questa cosa. Perché io ho nei miei anni di imberbe giovane aspirante pallavolista questi ricordi, che poi dopo andiamo a condividere con Giorgio e i suoi compagni di squadra, che erano effettivamente delle colonne insormontabili al palazzetto dello sport di Foiano. Giorgio, No, dall'inizio, però facciamo un po', appunto, capiamo un attimo come è nata questa squadra, che un po' che strada ha percorso per arrivare poi agli non è che nel 77 siete arrivati. Hai fatto una premessa molto carina prima, però ci hai messo di mezzo anche le docce. Ma la doccia allora non si faceva, parlo degli inizi, perché si giocava alla palestra, alla palestra delle scuole elementari. Se era tempo buono, anche d'inverno intendo, all'esterno, se pioveva all'interno. La palestra, cioè, praticamente aveva le righe quasi sul muro, quindi era difficile, insomma, vivere in quell'ambiente. Non c'erano docce, niente, c'era un lavandino, quindi la doccia dopo si faceva a casa. È nata la pallavolo grazie a due persone che non ci sono più, ad Alberto Magi uno e Fatucchi Fatucchi che era nell'Avis, ad Alberto Maggi, sinceramente non so perché, forse anche grazie al figlio che era un amante della pallavolo. E si partì noi dalla seconda categoria invece che dalla terza, ma per un motivo semplice, perché gli mancava una squadra e noi avevamo vinto il campionato juniores, quindi eravamo molto ragazzi piccolini, avevamo vinto la juniores, gli mancava una squadra e ci ammisero alla seconda categoria senza fare la terza. Si parla di che anno, Giorgio? Sinceramente bene bene non me lo ricordo, però diciamo, aspetta che ci arrivo, 70? 69-70, anno okay. Più anno meno è quello. Bene, posso inizia... sbagliare col 71, ma no, ma è più facile 69-70. Allora inizia questa avventura, diciamo, sì, anche con una piccola agevolazione di formazione del calendario, diciamo così, di campionato. E sarete stati tutti foianesi, ragazzi foianesi? Esclusivamente foianesi, eravamo tutti ragazzi anche che rientravano in quella fascia d'età di 15 anni, 14 anni, più grande forse 16, gente che veniva, la stragrande maggioranza dalla terza media e qualcuno dalla prima superiore, insomma poco più. E lì abbiamo vinto il campionato di seconda categoria. Addirittura. Sì, abbiamo vinto quel campionato e dopo ci siamo allargati, abbiamo preso dei rinforzi Arezzo, che poi sono stati dei rinforzi che addirittura uno ha seguito il percorso fino alla fine, che è Guiducci Franco, certo, d'Arezzo, certo. E con lui venne Frizzarin, purtroppo scomparso, che era giocatore allenatore, che era infatti un po' più vecchio di noi, faceva giocatore allenatore. Quindi diciamo, voi siete stati promossi in prima serie? Siamo in prima categoria. Prima categoria? In prima categoria. Ok. In questo, subito il primo anno? Subito il primo anno. E già lì si vedeva la stoffa. Già lì si vedeva. Allora ci fermiamo qui e poi continuiamo. Certo. Intanto abbiamo fatto una promozione. Sì, ma ci sono già degli elementi importanti su cui ritornare. Va bene. Va. Buon ascolto dalle F frequenze. un ragazzo abbastanza noto, George Harrison con My Sweet World. Nel 1971 il suo primo album da solista dopo lo scioglimento dei Beatles. Dal 1971 questa canzone, pensa caro mio Marzio, era dedicata al dio indù Krishna. Incredibile. Salutiamo degli amici che vanno e vengono, uno studio ormai. Stasera siamo in un porto di mare, ma soprattutto siamo in studio con Giorgio Gervasi, ormai coautore di questa trasmissione, che ha cominciato a tratteggiare un po' l'epoca in cui la pallavolo foiano stava cominciando a farsi strada nei campionati. Quindi nei primi anni 70 viene fondata questa società, questa squadra. Vi chiamavate già Avis? No, ma... come no? Ah, subito sempre e solo Avis. Avis Pallavolo, sì, perché foiano ha nominato una persona, giusto, Fatucchi, che è stato un personaggio molto importante di quegli anni. O il segretario o il presidente, non mi ricordo. Segretario. Comunque il segretario. Ok, quindi diciamo, come Avis Foiano siete nati i primi anni 70, siete subito partiti dalla seconda categoria, sì, e promossi in prima categoria. Esatto. Ecco, scusa, ma le altre squadre, visto che tu hai detto che la vostra età era piuttosto, diciamo, giovane, più o meno vi scontravate con avversari della stessa età? O... No, nei campionati solitamente erano tutti più vecchi. Noi la stessa squadra facevano sia la juniores che il campionato normale, ecco, perché eravamo gli stessi. Ah, ecco. E mentre nelle altre squadre c'era già qualche vecchiarello, insomma. Quindi era anche un bel impegno. Certo, sì. Mi sembra di ricordare, l'avevi già accennato prima, ma perché mi sembra di aver visto delle foto. Giocavate anche fuori dalla palestra? No, in quel momento giocavamo solo fuori, esclusivamente quando pioveva, allora non si poteva rinviare la partita, si andava dentro la palestra. Quindi giocavi praticamente nel cortile, la palestra delle scuole elementari. Esatto, palestra. Sì. Diciamo quella stanza adibita a palestra. Era 18 metri, perché c'entrava preciso il campo di pallavolo, che è 9 sì, metri, esatto, uno e 9 l'altro, esatto, quindi 18 vero. In totale. Che poi lì ci abbiamo fatto ginnastica tutti i tempi. Sì, abbiamo tempi delle medie. Chi ha fatto scuola qua, le esatto, medie, quindi conosciamo le bene. Superiori, per forza è stato sì, lì. Sì, sì. Oh, quindi arrivate in prima categoria. Sì. Lì vincete subito, no? Fate qualche anno. No, lì abbiamo fatto solo un anno fermi, ma c'è anche un motivo, perché in quell'anno ci vennero a mancare un po' di giocatori, anche un po' di esperienza. Facemmo un bel campionato, mi sembra arrivammo terzi, però Guiducci andò militare, un altro ebbe un infortunio, una frattura, comunque, quindi già non eravamo tanti. E poi soprattutto l'esperienza non c'era, salimmo di una categoria e ovviamente quindi non ce la facemmo. Comunque arrivammo terzi, mi ricordo, nonostante tutto. C'erano già i giocatori che poi sarebbero arrivati in A2 oltre a te, non so, mi viene in mente. Oltre a me solo Vanni. Luciano. Solo Vanni Luciano e il padre e il babbo del famoso tennista. Sì, che noi abbiamo che avuto abbiamo... ospite, che è un caro amico. E che da quando è venuto qua ospite è completamente esploso. Soltanto portato abbiamo portato fortuna. Speriamo sì, anche io possa ricominciare. Quindi ecco, Giorgio, se ti vuoi reintegrare nel mondo della pallavolo, noi portiamo discretamente. E ora viene il botto, perché ecco, dall'anno dopo abbiamo vinto la prima categoria, la Serie D, la Serie C, la Serie B. In un crescendo rossiniano. Allora, aspetta, però, cioè, lì in questi anni avete trovato, cioè, avete avuto nuovi giocatori o eravate sempre voi? Ci sono stati degli innesti. Anche l'allenatore. Allora, diciamo, della formazione iniziale della prima categoria eravamo io, Vanni, Magi, Mario, sì, il figlio di Adalberto che sì, prima ho citato, e Guiducci. Ok. E questi quattro sono rimasti fino alla soglia della 2. Poi dopo ci sono stati degli innesti sia da Arezzo, il palleggiatore, sia da Sansepolcro, un altro giocatore, e anche soprattutto da Lago, Trasimeno, da Castiglione del Lago, i fratelli Rossi. Prima uno solo, diciamo, via, il secondo è venuto in un secondo momento, cioè Stefano Rossi. E con voi siete passati dalla prima alla B? Con questa squadra. Ogni anno? Ogni anno. Giocavate sempre lì oppure a un certo no, punto? Quando noi abbiamo vinto la D, il comune, non so se grazie a noi, ma probabilmente anche un pochino grazie stimolati, a noi, stimolati, certo, ha costruito quello che oggi noi chiamiamo palazzetto, che allora era veramente un palazzetto, perché per quei tempi certo, noi andavamo al giro e effettivamente il nostro non è più carini, più bellini. Ora magari è una palestra, però venne costruito quello, e dalla Serie C infatti abbiamo fatto l'inaugurazione quando abbiamo vinto il campionato di Serie C. Pensa. E siamo andati in Serie B e abbiamo fatto la partita con i campioni d'Italia della Riccia per inaugurarlo, e abbiamo perso 3-1. Però vedi, ecco, questa è una cosa interessante, Giorgio, ma in questa scalata che hai detto, voi comunque eravate più o meno le stesse persone, sì. Eravate veramente forti o il livello che trovavate diciamo nelle varie serie a quell'epoca non era altissimo? No, noi eravamo forti di più, ecco, innata la classe di più perché se no non si potrebbe spiegare una cosa del genere. Ma poi dopo, se vuoi, c'ho altre motivazioni per dirti perché. Anzi, te le dico subito, non ci si pensa più. Dai. Perché quando poi è finito tutto, per il solito motivo che finisce tutto, indovina qual è? I soldi. Ecco, i soldi. Avrei detto anche qualcos'altro. No, no, i soldi. I soldi. Allora, ma questa è una deformazione. Questa squadra, quindi, i Fratelli Rossi, io, il Vanni, Guirucci, Tiezzi, che si era aggiunto, perché l'ho detto dopo, perché Tiezzi è più piccolo, certo, di noi. Marco. E si è aggiunto, era nel vivaio, è venuto fuori dal nostro vivaio e credo che lui in Serie B sia inserito, mi sembra, in Serie B con noi. Allora, queste persone qui sono andate a giocare, due da una parte, due da un'altra e così via. Allora, io con Guiducci sono stato a giocare nella Lazio di Arezzo, e Vanni e Tiezzi, vigili del fuoco Arezzo, sì. E i Fratelli Rossi sono tornati a casa sua, Castiglione del Lago. Allora, dovete sapere che il primo anno vinse dalla C alla B e i vigili del fuoco andarono in Serie B. Noi alla Lazzari arrivammo secondi, l'anno dopo vincemmo la C e l'anno dopo vincemmo la B. E ritornammo in A2 con l'Arezzo. Ritornammo in A2. Siamo stati Arezzo e abbiamo giocato 3 anni in A2. Dopo io sono tornato da giocatore allenatore a Foiano, che era in prima categoria, e dalla prima categoria siamo ritornati in Serie B2. Aspetta, fermiamoci, sennò diciamo tuttora. Il filologico è chiaro, è chiaro che c'era, no, era classe. Per rispondere al fatto. Sì, c'era stoff. Chissà sa, dicevo. No, ma io ti ho fatto la domanda proprio perché un po' diciamo, sapevi la risposta. Ma aspettavo la risposta. Va bene. Andiamo con il prossimo brano, come direbbero quelli bravi. Io non lo sono, quindi la prossima canzone. Bene. Gone my mind. Blind Faith con Can't Find My Way Home, pilotico di corsa. Bravo. Un brano del 1969. Volevo dire ai nostri ascoltatori che non possono proprio percepire la difficoltà, lo sforzo che fai nel musica esercitare. Giusta per il periodo, no? Certo, giusto, ma io non a caso. E questa è la passione radiofonica di Enzo. Un grande applauso a Simone e anche a Enzo che si sforza di disannunciare. Can't Find My Way Home. Aspettavone. Scusa, non stavo finendo la frase, allora la rifacciamo. Ormai abbiamo, tra l'altro, abbiamo ma d'altro sei quello, dopo me e Marcello sei quello che ha fatto più presenze, quindi tra l'altro abbiamo trovato, se voi andate sul sito della Lega Pallavolo e inserite il nome Giorgio Gervasi, trovate la sua scheda come ruolo universale, giusto Giorgio? Però poi ci dicevi fuori onda che in realtà tu eri un universale vuol dire che sai fa tutto. Cioè, ma niente po' di no, meno che. Ora io ho scherzato, ma in effetti universale vuol dire che quello lì fa il centrale, alza e schiaccia. Sì, cioè, sì, sì. Dove c'era bisogno te metti. Completo. Te eri lì, sapevi fa tutto. Dove lo metti e lì sta. E quindi questa cavalcata si diceva che arriva fino alla 2, ma per esempio la Serie B era un girone unico allora, giusto? No, la Serie B no. Scusami, cioè c'erano più gironi, però non è che c'era B1, B2. No, era solo la B. Ok. Era solo la B e se non vado errato erano 6 gironi in Italia. Quindi comunque insomma impegnativo. Certo, già in Serie B facevamo dunque Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna, Marche, era già tutto il centro Italia, compresa la Sardegna. Come vi muovevate? Cioè, ovviamente in Sardegna credo in aereo, ma insomma, com'era l'organizzazione? Come funzionava? Scusa se ho riso. Ma no, certo. Allora, l'organizzazione era questa. Parlo dell'Avis, Sì, sì. Distanza notevole, treno. Panini fatti dalla veglia. Partenza. Meraviglia. Quando arrivavamo, che ne so, questo dopo è vero in Serie A, ma insomma già Palermo, cambiati. Catania, Arancina, la stazione. Giocare molto spesso in Sicilia, non so se lo sapete, ma allora a quei tempi non c'era mai l'acqua. Col sudore addosso, rimontare in treno, intendete bene? Ricomprare arancini, dormire in quelle carrozze alla meno peggio e riarrivare qua a casa. Mamma mia. Questa era la prassi fino allora. Ma impressa. Quindi ecco, il talento viene fuori anche lì. Oh, dunque, aspetta. Io volevo dire una cosa, Enzo. Giorgio ha menzionato la costruzione del palazzetto dello sport, no? Che oltre ad essere accogliente proprio per giocare e funzionale, sarà sicuramente stato anche un po' il catalizzatore del pubblico, diciamo del tifo che poi in quel tempo vi supportava. Sì, c'è stata sinceramente una grande risposta da parte della gente. Devo ammettere però che la risposta c'è stata tanta fino alla Serie B, perché si vinceva sempre. Quando siamo andati in Serie A, e la Serie A2 era a girone unico, quindi noi una volta siamo arrivati sesti in A2 però, come la 18ª squadra d'Italia, cioè per capirsi. Quando noi andavamo a giocare, giocavamo Foiano-Palermo, Foiano-Napoli, Foiano-Alessandria, Foiano-Torino, ma no l'Amatori, cioè la prima squadra di quella città. Cioè, non so se vi rendete conto. Un paese di 8.000 abitanti andava a scontrare con quelle metropoli. Erano le prime squadre. A Roma era, dopo passò, ma era in A2 e noi abbiamo giocato anche contro Roma. Sicché c'è, dopo che successe? Siccome cominciavamo anche a perdere, ovviamente, ma c'era anche un altro motivo, perché aprirono agli stranieri, noi non avendo i soldi non potevamo prendere lo straniero, le altre si rinforzarono tutti con gli stranieri e noi no. Certo. E nonostante tutto, ripeto, arrivavamo sesti in A2. Ecco, Io infatti, sentendo parlare Giorgio in questo momento, mi rendo conto che forse questa è un'esperienza che è stata un po' troppo dimenticata, sì, perché effettivamente quando a livello nazionale riesce a essere tra le prime squadre che si combattono e si confrontano con queste, con fior di squadre cittadine anche di metropoli e con tanto di supporto anche di sponsor, di insomma, quindi di materiale economico. Secondo me il valore aumenta senza dubbio, cioè, c'è gente che in tempi poi successivi si è proprio trasferita altrove per avere gli stessi risultati che in quel periodo loro hanno ottenuto portando il nome di Foiano al giro per l'Italia. No, ma assolutamente, e se ne parla anche per questo stasera. Per esempio, io mi chiedo, quando incontravi proprio queste squadre blasonate, la percepivi la differenza? Ma non parlo tanto in campo mentre giocavi, nell'organizzazione, cioè vi vedevano come quelli arrivati dalla campagna, vedevi arrivare questi, cioè Roma, allora, quando veniva Foiano veniva un aneddoto per tutti, per la risposta. Noi abbiamo vinto la Serie B. Quando abbiamo vinto la Serie B, di diritto siamo andati in A2. Ok. Però una squadra dei sei gironi andava in A1 fra gli spareggi fra tutti noi. Siamo stati a Roma una settimana e lì ci siamo scontrati con le altre squadre. Prima partita noi l'abbiamo giocata con la squadra che era quella più titolata, la Iaco Rossi Alessandria del Petrolio. Iaco Rossi, due nazionali in squadra avevano, due nazionali loro, all'Ilton, noi all'acqua cetosa nei Cameroni, ma non sto scherzando, chi c'era lo sa. Nei Cameroni abbiamo dormito in camera in sei, facevi squadra, squadra. Però abbiamo vinto noi 3-1 col favorito. Grandissimo. Dopo ci hanno fregato, lo sapete perché? No. Dopo abbiamo giocato col Bologna, abbiamo perso perché ci hanno fatto giocare il giorno dopo e noi avevamo un limite, noi si doveva fare una partita ogni 3-4 giorni perché la base d'allenamento era zero, perché si giocava più a pallacanestro che a pallavolo all'allenamento. Infatti questa era l'altra domanda, ecco, perché stiamo parlando di un livello quantomeno semiprofessionistico, cioè nel senso, sì, magari nelle altre squadre c'erano proprio dei professionisti. Sì, come no. Ecco, voi quante volte vi allenavate quando siete arrivati in A2 e come erano i vostri noi allenamenti? Ci allenavamo 3 volte alla settimana, però diciamo a pallacanestro, a calcetto e il finale a pallavolo, no, perché era per sdrammatizzare, no? Non sentiva la tensione, per fare il fondo. Senza essere retorici, ma si può dire che, oltre al fatto che eri veramente bravi tutti, che la vostra forza magari rispetto agli altri tra virgolette era la spensieratezza, cioè non lo so, sicuro, la serenità? No, hai detto benissimo, era quello, e era poi quello che tiravamo fuori nella partita, perché si tirava anche sputi sotto la rete per farti capire, hai capito, come ci si sentiva in quel momento e si voleva vincere per forza. Ma ascolta, poi dopo andiamo in pubblicità, facciamo un altro brano, perché poi parlerei di continuo, perché le curiosità sono tante, cioè nel senso, gli altri giocatori delle altre squadre, che ne so, quando c'erano i nazionali eccetera in campo, lo percepivi che vi vedevano in un certo modo, che ne so, boh, facevano un po' superiori, prendevano con sufficienza, e poi dopo prendevano coscienza e... No, già al terzo set più o meno, cioè, già avevamo fatto un po' di nome, cioè all'inizio sì magari, ma dopo sapevano che incontravano. Te devi tenere presente che la squadra per l'epoca era altissima, cioè noi avevamo una media da 1,90 m in su come giocatori. Okay. Quindi ora può sembrare ridicolo, ma stiamo parlando degli anni 70, quindi era difficile trovare squadre di quell'altezza. Quindi quando si trovavano squadre praticamente leggibili, vuol dire che c'avevano quei due o tre giocatori forti, tipo stranieri così, ma noi sapevamo che la palla andava lì, era difficile che passasse dal nostro muro. Certo. Mentre quando trovavamo squadre che facevano un gioco in velocità, ci mettevano un po' in difficoltà. Ho capito. Bisogna fermarci per forza, se no facciamo solo parlare. Consideriamo che il gioco dell'epoca, le regole dell'epoca erano anche un pochino differenti rispetto a quelle. Scusa, questa me la devi far dire. Ma di tutto quello che vuoi. Allora, quando guardo la partita di pallavolo ora, che ancora ovviamente la guardo, mi viene da ridere. perché ora la palla si prende in tutti i modi, anche col piedi. Certo. Cioè, a noi bastava un leggero fruscio che non andava bene, era subito doppia trattenuta. Cioè, era puro. Il gesto. Noi avevamo dei fondamentali, non dico io, noi in generale, certo, anche le altre squadre, dei fondamentali eccezionali, perché se no era un fischio dell'arbitro. Oggigiorno le tralasciano tutti, è solo una forza fisica, la botta, la potenza per quel ruolo, e sanno fare solo quella cosa lì, bravissimi, ma solo per quella cosa. Non a caso c'è il libero che riceve, certo, difende e basta, c'è il martello che picchia e basta, c'è quello che fa il muro e basta, o la veloce. Le altre cose non le sanno fare, non ricevono, fanno niente. Noi sapevamo fare tutto, tutti, chi più chi meno, certo, ma insomma, certo. Chiarissimo. Buon Brano. Ascolto dalle F frequenze. Cult. Vuoi sapere il titolo, caro mio Marzio? Sono qui che fremo. She Sell Sanctuary. Ma poi mi piace proprio il dal disco Love del 1985. Sono britannici e appunto l'album era Love, basta, non dico Love, ma Love, Love, Peace and Happiness. Peace and Love. Ma torniamo a questo racconto che noi... a questo love per, la, per il volley. Love per il volley, sì, esatto. Che tra l'altro non abbiamo nemmeno troppe immagini da postare, perché purtroppo in quegli anni lì... Però secondo me, Enzo, traspare e trasuda proprio la passione di Giorgio nel raccontare quel periodo, tutta la passione che muoveva questa squadra. Sì, tra l'altro, sì, è vero, quello che oggi, diciamo, sorprende di più era, secondo me, ascoltando così da profano, l'organizzazione, che era veramente a livello, una conduzione familiare praticamente. Familiare. E chi erano i dirigenti? Ce li vuoi ricordare, forse, oltre a chi è i fondatori? Il primo presidente Tiezzi Mario fino alla Serie C. Ah, ok. Che infatti dopo era anche presidente dell'Avis. Avis Sangue, no? Certo. Infatti noi, ricordo, eravamo Avis Pallavolo. Poi dopo subentrò Lodovichi. Sì. Lodovichi è sempre, mentre Magi ad Alberto è sempre stato un dirigente. E i primi tempi Fatucchi, poi dopo ci fu la scomparsa di Fatucchi e la famosa veglia dei Panini. Beh. Poi non si veglia. D'altra parte c'è delle figure che sono fondamentali per il buon esito che ci faceva il sacchetto quando partivamo per le trasferte. Voi giocavate... forse anche l'alimentazione poteva essere un elemento. Giocavate il sabato sera, mi ricordo, vero? Noi sempre il sabato sera. Quindi la trasferta presente... Poi dopo fummo obbligati al sabato pomeriggio quando eravamo in A2. Ah, quindi sabato pomeriggio per forza. Allora, una trasferta come Catania fatta in treno, partivi il venerdì sera? Venerdì? Sì, nelle cuccette. Quindi la notte la facevi nelle cuccette? Nelle cuccette. Quindi belli riposati, arrivavi a Catania. Che però questo è il moto sussultorio. No, tra l'altro, arriva, devo dire, ma non è uno scherzo, poi negli annali c'è. Diciamo su 10 volte almeno 7-8 si è vinto fuori casa, cioè, sì, fuori quindi, casa, cioè, quindi la cuccetta, nonostante quella situazione, cioè, nonostante... No, perché poi ho dormito in cuccetta, ma io sono 1,70 m scarso, devo, stavo, dire, insomma... devo dire, permettetemelo questo, perché è tutto importante in Sardegna, quando andavamo in Sardegna a prescindere Cagliari, una volta addirittura abbiamo avuto 5-6 trasferte in Sardegna nello stesso anno, una serie minore però, mi sembra forse in C. In Sardegna abbiamo trovato sempre il pubblico eccezionale, perché è vero che ci massacravano e erano per i loro, come è giusto che sia, certo. Ma come vedevano la differenza talmente grande fra noi e gli altri, all'ultimo si alzavano tutti in piedi a applaudire quando uscivamo e venivano lì a darci la mano, cioè, pensate, però... solo in Sardegna ci è successo queste cose, in altri posti abbiamo preso seggiolate, cose tipo Pescara in A2. Ecco, raccontaci qualcosa, dai, qualcosa di particolare. Pescara siamo andati via scortati. Ma perché scortati? Cioè non avete solo vinto, avrete fatto abbiamo anche qualcosa? Vinto, era la prima in classifica, ah. E noi le prendevamo in giro, diciamo, usiamo questo termine. Sì. E c'era uno, forse praticamente dei nostri che si riscaldava e quelli tiravo la roba, fischiava e lui, ora qui non si può vedere, non è la televisione, ma faceva finta di lisciarsi i capelli intanto con l'altra mano li mandava, e diciamo. Allora ci aspettarono e venne fuori tipo allo stadio quando tirano fuori per far entrare i giocatori, allungano il fuori tendone, fuori c'era la volante che ci scortò una avanti e indietro col pullman per venire via, vedi voglio dire, insomma, la veracità, il sanguigno esce, esatto, fuori, no? E le trasferte, per esempio, in Sardegna ci andavi con l'aereo, almeno lì l'unico, no, anche lì siamo andati qualche volta con la nave, poi ci siamo rifiutati perché vi potete massacro. Immaginare d'inverno col mare mosso, mentre in Sicilia con l'Avi siamo andati praticamente sempre in treno. Allora, eravate 12 squadre in Serie A2? Sì, 12 in A1 e 12 in A2. Quindi facevi 11 trasferte in giro per l'Italia. Esatto. Per quanti anni siete stati in A2? Tre anni consecutivi. Sì. Hai detto un anno siete arrivati... Un anno siamo arrivati sesti. Quindi sesti voleva dire 18ª squadra in Italia. Quindi, insomma, livelli altissimi. Hai qualche ricordo di una trasferta più particolare? Che ne so, per esempio Roma, dove giocavate? In un palasport? Sì, a Roma più posti, però diciamo quello dove andavamo normalmente è quello vicino al Flaminio, quello da 5.000 posti lì, infatti sembrava d'essere, dici, ma dove che effetto fa? Lì per lì quando entri, sì, anche perché a quei tempi non è che era seguita come adesso la pallavolo, anche se magari c'erano 500 persone, ma in un posto di 5.000, insomma, ovviamente. Però ecco, i ricordi forse più vivi, ripeto, in Sardegna, perché lì proprio si pienavano palazzetti, anche a Cagliari, a Sant'Elia, che è accanto proprio allo stadio. Anche lì non è da 5.000 ma 2.000 posti, tutti forse lì c'era un posto neanche in piedi, cioè solo in piedi, dicevo, e con un tipo, un tifo di quelli. Avete riscontrato, insomma, risentito l'umanità, insomma, che vi ha accolto bene? Sì, sì, sì, perché gente veramente che fino all'ultimo per loro, tamburi, tutto. Però poi finita, la partita. Non dico che ci portavano un trionfo a noi, ma facevano capire che siete più bravi, è giusto che abbiate vinto. E non è poco, eh. Certo. Senti, ora voi poi, diciamo, quando eravate in Serie A 2, ovviamente giocavate con squadre molto lontane da Foiano. Però, per esempio, abbiamo avuto gli amici del calcio quando sono arrivati in Serie D, che poi sono gli stessi anni, quindi è stato un momento importante per Foiano. Una volta mi sembra abbiamo fatto anche una scena insieme col comune. Immagino. Pallavolo e calcio, sì. E loro, per esempio, il Foiano Calcio ha sempre avuto da Sansovino come squadra rivale. Voi avevate una squadra che magari più a livello locale, magari in Serie C, ripeto, non in A2, con cui quando vi trovavate? Da ragazzi e basta, parlo da ragazzi a livello juniores. Allora, la nostra bestiana era anche per noi, era la Sansovino. Dio, aspetta, però, a livello juniores. Dopodiché, cioè, da perdere o vincere forse per caso, quando ci si giocava, ma no, dopo 6 anni, dopo un anno, tutto un colpo, facevano tre punti a sette. Questo, cioè, è una crescita così. Sì, importante. Sì, perché loro erano rimasti sempre, anche perché erano tutti nanetti, cioè era tutta gente che noi diventammo quelli che siamo diventati, e loro erano rimasti lì e sono sempre rimasti lì. Un altro brano, l'ultimo, e poi rientriamo, così raccontiamo come va a finire questa favola. Chissà se avrà degli effetti questa ricostruzione storica a livello di campanile. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going big, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. It was true. The Clash, London Calling. Non ti toglierei mai questa soddisfazione. Ma stavo per passare il foglio per disannunciare. I Clash l'avrei anche disannunciato di volere. Ma sì, London Calling. Qui ridendo e scherzando, o meglio ascoltando Giorgio che ci Enzo, racconta. Guarda, Enzo. Piazza Alta è un programma che mi stupisce ogni settimana perché viene fuori una Foiano da bere. Ma anche da giocare, da palleggiare anche. No, voglio dire, ci sono state in queste 52 puntate che abbiamo fatto, abbiamo veramente scoperto e un pochino rispolverato delle esperienze che sono state veramente importanti, e mi rendo conto non soltanto a livello locale. Noi vogliamo parlare di noi, del locale, della gente di Foiano, dei luoghi fatti così, e invece siamo forzati ad espanderci in ogni dove. Ma ora, a parte questo discorso che nessuno ha seguito perché siamo addormentati tutti, però l'ho fatto apposta. No, è stato bello, scherzi, voglio bene come se fosse normale. Però è vero, cioè dispiace riscoprire, nel senso che non c'è una tradizione anche di ricordi. Vedi, tu sei un negativo, io ti dico invece sono un positivo e dico che sono tutte cose che, se sono accadute una volta, possono ancora riaccadere. Sì, no, ma ora magari non con Giorgio che a volte ritorna. A volte ritorna. Allora, però vediamo. Bravo, ora prendi la pasticca. Allora, ti ha detto all'Enrico Toti che tiro la stampella dentro il campo. No, io non cercavo di stimolarti, no, di stuzzicarti. Volevo dire, a un certo punto finisce che retrocedete dalla Serie A 2 dopo 3 anni bellissimi. Sì, no, ma fino a un certo punto, perché venivamo ripescati, perché non eravamo ultimi, eravamo i primi a poter essere ripescati, e se ci fossero stati i soldi rimanevamo in A2. E invece non c'erano, perché lo sforzo era veramente ci siamo divisi tutti. Io e Guiducci siamo andati a Lazzare Arezzo, due Tiezzi e Vanni sono andati ai Vigili, sempre Arezzo, i due Rossi sono andati a Castiglione del Lago, qualcuno ha smesso, e il bello però di tutto questo discorso è che siamo riusciti a ritornare con l'Arezzo in A2 un'altra volta dalla Serie C. Poi dopo io sono tornato a Foiano, sono tornato a Foiano in Serie D o in prima categoria, non ricordo bene, cambia poco, e con me ho portato Tiezzi Marco, all'inizio, e abbiamo vinto il campionato e siamo andati in C2. Facevi anche l'allenatore te? Allenatore e giocatore, a quel punto, e siamo andati in C2. L'anno dopo ho richiamato qualcun altro e siamo andati in C1. L'anno dopo ho richiamato qualcun altro, ho rifatto la squadra che era Foiano, totale, e siete arrivati in Serie B. E siamo ritornati in Serie B. Esatto, con gli stessi vecchietti. Questo me lo ricordo perché ero negli spalti. Con gli stessi vecchietti siamo ritornati in Serie B. Quindi vuol dire che la stoffa, insomma, non era un caso. Erano passati 10 o più anni e noi abbiamo rivinto sempre lo stesso. E se ricordo bene, Giorgio, con la stessa voglia, diciamo, con la stessa leggerezza, diciamo, dei 10 anni precedenti, quindi. Sì, no, ancora di più, perché nei primi anni io scendevo diverse volte l'arbitro, invece alla fine andavo lì, gli sorridevo, ero maturato. Una pacca di sì, ero maturato, andavo e dicevo: sei un cretino, l'hai capito che quella palla era nostra, però invece prima sarei andato lì, lo strattonavo e lui mi buttava fuori, invece lì non sentiva nessuno, io ridevo, lui, perché sapeva con chi aveva a che fare, col blasone della squadra, certo, in tempo il capitano, che fu, e allora soprattutto in casa ci pensavano bene prima, e poi l'ultimo andavo di scuse, momento di nervoso, ho detto scusa, non ti preoccupare. La cosa più bella che ricordo io è di vedere Giorgio vincere, giocare e vincere con una divisa bianco-rossa, insomma, ecco, diciamo. È l'unica cosa negativa, si vede i colori sociali. Non me lo dovevi ricordare, me la sono tenuta per lui. Ma poi all'ultimo ha detto cattivo. Questo ti fa onore. Sì, allora io gli onore. Posso rispondere dicendo: solo con me possono vincere quelli bianco-rossi. Ma considera comunque che stasera stai parlando ad un microfono rosso, ma con le cuffie azzurre e bianche. L'ho scelto io, l'hai visto? Le cuffie sono l'ho azzurre e bianche. Ma perché gli voglio bene, piccini, dai, piccini. Ma vorrei vedere che noi altri si dà, Giorgio. E siamo tornati in un altro argomento. No, a parte tutto, grazie ancora Giorgio per essere grazie stato a voi con noi, per avermi chiamato qui. È stato un piacere ricordare quegli esatto, anni bellissimi. È un piacere anche per noi ascoltare. Marzi, vuoi dire qualcosa di poco no, interessante? No, guarda, sono veramente di poco interessante. No, dai, no, direi che hai fatto se vuoi tutto fare una chiosa. Volevo salutare e dare chiodi. Appuntamento alla prossima settimana, giovedì prossimo, con Piazza Alta okay, e Giorgio. E Giorgio parleremo di qualcosa di cui ancora stranamente non abbiamo parlato. Esatto. E ringraziamo Simone e Paola alle riprese. Ma non no, aspetta, aspetta. No, aspetta, te lo fa. Ora faccio la sigla e viene fuori. Fatelo in coro, aspetta. Pronti? A giovedì prossimo. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi, alla conduzione tecnica Simone. One. Alle riprese video Paolo. Aolo.